L'indirizzo mail al quale potete scriverci per due motivi principalmente: o per suggerirci delle notizie alle quali volete che noi diamo rilevanza e rilievo, oppure potete anche, siccome noi facciamo delle telefonate a caso, potete suggerirci dei numeri di telefono di vostri amici che voi pensate possano essere contattati da noi. Quindi questi due motivi possono essere quelli che vi inducono a scriverci al nostro indirizzo mail, che è avanzidimanera@radio24.it. Finalmente da questa settimana la mail è attiva al 100%, quindi riceveremo le vostre mail che prima per motivi tecnici non potevamo ricevere. Ve la ripetiamo un'altra volta: avanzidimanera@radio24.it. Giusto, Ceva? .it, giusto, sì. E noi vi ringraziamo, sì. Vi ringraziamo fin d'ora per quello che ci scriverete. Continuiamo con le notizie di questa settimana. Beh, è uscito da qualche tempo, da qualche settimana, 50 sfumature di grigio. Sì, sì, sì. Io non l'ho letto. Io non l'ho né letto né visto. Neanch'io. Però ormai si sente raccontare in ogni dove, nei bar, nei locali, in televisione, quindi quasi quasi, insomma, ormai tutti lo conosciamo. Tutti lo conosciamo. Cosa è successo in Inghilterra, mi sembra? Allora, il film continua a scatenare discussioni, eccetera, eccetera. Le scene hot della pellicola, tratta dal bestseller omonimo, potrebbero aver ispirato chi è andato a guardare il film. Alcuni spettatori si sono presentati alla proiezione vestiti completamente in latex, come va in giro lei normalmente. No, assolutamente no. Al massimo solo i pantaloni. Ecco. Vestiti completamente in latex, uno di questi spettatori ha chiesto se venivano forniti all'ingresso dei sex toys. Ma come? È la cosa più normale del mondo, no? Che al cinema ti danno i popcorn e i sex toys. Esatto, e delle varie cose. Lo staff ha trovato di tutto sul pavimento, spettacolo terminato: profilattici, scatole di maschere e manette anche. Alcune donne sono state sorprese, questa cosa è tristissima secondo me, al buio mentre erano bendate coi calzini. Hanno pagato il biglietto per non vedere il film. Ed emettevano gemiti, stavano replicando alcune scene del film. Che meraviglia, un po' come Guitar Hero, si ricorda Guitar Hero? No. Che bisognava così replicare un po' la musica, che insomma quelli più giovani la conoscono. E qua al cinema bisognava emulare ciò che avveniva sullo schermo. A lei mi è capitato al cinema di avere dei rapporti intimi, Ceva? Sì, ma non posso dire in quali film. Ci dica in quale cinema però. Io dove abitavo? Io a Valenza Po. A Valenza Po. Al cinema sociale al mercoledì facevano i filmini, i filmettini, quelli un po'. Ah, diciamo. Lei da vedere proprio quelli vietati ai minori. Mi è capitato un paio di volte. Si vede lei che ha un aspetto un po' così. Un aspetto come tanti della mia generazione abbiamo visto quei film. Noi vogliamo rimanere romantici, non pensare al sesso, che insomma è la cosa alla quale pensano tutti. Noi vogliamo mantenerci più alti, volare alto. E allora ci occupiamo del primo incontro, quello in cui nasce l'amore. Che in meraviglia. Cui la dopamina e l'ossitocina vanno verso il nucleo caudato e stimolano il rapporto anche romantico. Certo, oltre no, che lei sessuale. Ha distrutto il romanticismo con la scienza. Quali sono le 10 cose da non dire al primo incontro? Per esempio, lei va al primo incontro con una donna o una donna al primo incontro con l'uomo, e cosa bisogna non dire perché altrimenti il rapporto crolla? Non bisogna dire al primo posto quanto guadagni. Beh, è abbastanza indelicato. Poi non bisogna dire vuoi sposarti, figli ne vuoi? Specialmente non bisogna dirlo con questa aggressività. Al terzo posto vuoi un'avventura o una storia seria? Ecco. Al quarto posto sei un bamboccione? Cioè, non bisogna fare domande che pongano in difficoltà. Al quinto posto, Ceva, ti vesti sì. Così di solito? Non è vero questo. Al sesto posto, non sei sportivo, vero? Al settimo posto, con chi stai chattando? Vabbè, ma è sbaglia lui a chattare mentre è al primo appuntamento. All'ottavo posto, da me o da te, subito. Al nono, ti va se ci rivediamo? Questo non va detto perché dà un'immagine di insicurezza. Beh, certo, mette in dubbio il fatto di essere stato esci piacevole. Con una, le offri la cena, poi ti va se ci rivediamo. Però se paghi tu, secondo me la risposta è sì. E l'altra cosa da non dire mai è: vengo da una brutta esperienza. Dico, da una storia di 10 anni. Perché? Vediamo la spiegazione. Per quanto ci sembri liberatorio mettere subito sul piatto le difficoltà passate, è una pessima idea affrontare argomento al primo incontro. Mettetevi nei panni dell'altro. Chi vorrebbe trascorrere una serata piacevole e spensierata con qualcuno che si dichiara triste e depresso in partenza? Vengo da una brutta esperienza, scusami. Non lo so, lo dica lei in maniera. Va bene, non cazzeggiamo. Diamo un senso a questo pomeriggio. Abbiamo telefonato a qualcuno di voi per vedere se riformulo la frase.